andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera Peppe. Ciao Cruciate. You got the time and attend to get yourself in. And here is time almost every night. But now I might be mistaken. Complimenti per il programma. Ti seguo sempre dalla mattina alla sera. Proclama della zanzara, proclama della sera, Parenzo. Noi delle discussioni sulla legge elettorale, sull'Italicum, ce ne sbattiamo i coglioni. Chiaro, eccolo qua. Chiaro come il sole. Io sono convinto, adesso qualcuno mi deve chiamare questa sera dai camion, dai taxi, dalle macchine. Ce ne deve essere uno. Io ne voglio uno che mi chiama e mi dice: sono appassionato al tema della riforma elettorale. Beh, adesso proprio appassionato. Della minoranza magari. Del PD. Della minoranza del PD che attacca Renzi, di Gotor, del signor Gotor. Beh, che presenta c'è? L'emendamento. Beh, la malissima persona Gotor. Sì, benissimo, no, ma io non sto discutendo Gotor. Sì. Cioè, è la materia, capito? La materia. Il PD che si spacca su. Io voglio un ascoltatore, uno che mi dice: io godo quando sento parlare dell'Italicum, amico mio, l'Italicum. Noi invece ce ne sbatteremo i coglioni. Beh, no, così. totalmente. Cruda. D'altra parte, come si fa ad appassionarsi, per esempio, ecco appunto, a quello che dice, non per lui, è Miguel Gotor? Beh, no, io mi appassiono. No, ma se tu ti appassioni che sei malato, abiti a Roma. Io per fortuna abito a Milano, in un posto lontano dal potere. Ma è su tutti i giornali, lontanissimo dal potere. Ma appunto, tutti i giornali che sono morti. I giornali che notoriamente sono morti e riportano le frasi del dibattito interno al PD sulla legge elettorale. Certo, ma chi devono scrivere? È importante per gli equilibri, chissà che fine fa Renzi, il Presidente della Repubblica. Oh, sentiamo Gotor, vi prego. Io ve lo faccio sentire perché poi uno capisce il perché non mi appassiono più di queste cose. Gotor, se i capigruppo. Già capire questo, no? Se ci saranno i capigruppo bloccati, non voterò l'Italicum. Senti. Il sottoscritto, se restano i capolista bloccati, non voterà l'Italicum. Guardi il labiale, non voterà l'Italicum. Lo potrà verificare. Tra l'altro. Io per esempio, vabbè, comunque non voterà l'Italicum, no, dicevo, anche altre leggi non ho votato perché non penso a quella sul finanziamento pubblico dei partiti, all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Prego. Vabbè, è arrivata oggi una notizia, cioè che ma quella non è una battaglia sbagliata, sì, però sì, quella vabbè, di Gotor. Adesso avrai il tempo per raccontare la tua versione poi. Durante la pubblicità, sì, ne parleremo durante gli intervalli, esatto, durante gli intervalli. No, ma invece c'è da segnalare che il nostro amico barra nemico Marione Adinolfi, no, nemico mai, ma no, insomma, nemico no, ma è direttore del quotidiano La Croce. Adinolfi al Baghdadi, dici tu, il califfo, sì, colui Adinolfi. Che non vuole usare il preservativo, dice che non bisogna usarle, che bisogna essere monogami, eccetera, sostiene una tesi un po' bizzarra, ardita. Cioè che il signor Don Mauro Inzoli, che è il prete pedofilo, come dice la Chiesa, non lo dico io, lo dice la Chiesa, pedofilo, ha tutto il diritto di assistere a una. Quello è vero, non essendo ai ceppi, come invece vorrei io, non essendo in galera, come invece vorrei, ha tutto il diritto di assistere a un convegno, per carità, è vero. È curioso il fatto che il signor Adinolfi dica: beh, è un libero cittadino che non è stato condannato né è sotto processo. Beh, Marione Adinolfi, la tua Chiesa la tua chiesa, certo. Il tuo papa lo ha sospeso da tutte le attività per i fatti gravissimi che sono successi. Gravissimi! Vergogna! E poi? Era perché un libero cittadino che non è stato mai neanche inquisito per la questione, diciamo, che gli viene contestata. Detto questo, se non fosse venuto era meglio, così avrebbe evitato tutte queste polemiche cretine. È arrivata la notizia che non si potrà fare il referendum sulla legge Fornero. Anche qui non me ne fotte nulla, assolutamente. La rabbia di Salvini. Esatto, no, però è curioso Salvini, il crescendo, senti il crescendo salviniano, come un crescendo rossiniano. Qui c'è un crescendo salviniano. Parte con è ospite, prima che arrivasse questa notizia, ospite in una delle tante trasmissioni dove va, anche qui per carità, e dice: voglio dire un vaffanculo a chi vuole Amato, senti. Matteo Salvini, come commenta la decisione della Consulta? Con un vaffanculo che si sente in tutta Italia, perché è veramente una decisione vigliacca, vergognosa. L'ultimo spazio di democrazia che era rimasto, referendum, centinaia di migliaia di italiani che hanno firmato, è stato cancellato, un colpo di spugna. Mi vergogno del fatto che Renzi e Berlusconi in una mattinata come questa stessero a parlare di legge elettorale. Mi vergogno che qualcuno ipotizzi Amato Presidente della Repubblica, membro di quella Corte Costituzionale che ha. Radio 24, primo pomeriggio. Beh, buongiorno e benvenuto. Beh, buongiorno, mica tanto. Però la sentiamo malissimo, non so se in un posto dove prende male. No, sono io che sono incazzato, a nome non come segretario della Lega, ma a nome di milioni di italiani, perché stavo ascoltando il servizio sulla legge elettorale. Radio Padania, l'Italia mi fa schifo. Questa Italia mi fa schifo, mi batterò fino all'ultima energia che ho in corpo per ribaltarla, perché oggi è veramente una giornata schifosa. Ancora Radio Padania. Povera Italia. Beh, povera Italia, uno ha il diritto di incazzarsi. Andiamo avanti. Il crescendo salviniano. L'unico cambiamento vero, reale, positivo per la gente che avrebbero potuto sostenere gli italiani con un referendum in primavera è stato fottuto. Quindi veramente una giornata del cazzo, in un paese del cazzo, con un governo del cazzo, e spero che gli italiani si sveglino. Poi come Lega adesso faremo... L'eloquio forbito adatto ai suoi elettori. Non interrompere la poesia che c'è tutto in testa. L'eloquio forbito adatto ai suoi elettori. Andiamo avanti. Tutto in testa, sì, non fermare la poesia. Non fermare la poesia. Testa? Ma in quale testa? La mia testa. Il Papa. Ma che è un bell'ambiente. Adesso io dico testa. Il Papa. Amici miei, il Papa. Ecco, il facciamoci altri nemici. Avanti, no, su. Il Papa ormai parla con chiunque. In qualsiasi occasione. Ma perché non va ospite in un talk show? Cioè, a questo punto mi aspetto che vada ospite da Porta a Porta, da Santoro, il Papa, ospite Papa. Io non mi stupirei se mi dicessero: chi è ospite stasera? Papa Francesco contro il professor Cacciari, contro Marino Adinolfi, contro... Io non è che tu ti stupiresti? Ospite no, Papa ma Francesco. Sarebbe straordinario, perché ma, no? Ma no, ma è ormai il Papa deve parlare poco, no, deve anche parlare su Twitter. Ho visto che non mi segue su Twitter, ad esempio. Allora, senti questa cosa qua. Allora, è incredibile quello che ha detto sulla questione dei figli, sì. Dei figli. Cioè, bisogna fare al massimo tre figli, abbiamo già detto ieri, ma facciamo sentire l'audio stasera, e che non è una cosa da buoni cattolici fare i figli come conigli. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No, paternità responsabile. Beh, guarda che invece ne parleremo, ma io sono d'accordo con lui, è forte. Sì, però. Ma dice delle cose di assoluto buon senso sulla maternità appunto. Responsabile. Ma che vuol dire? Ma non vuol cioè, dire questo niente. È un papa davvero rivoluzionario. Ma quelli che fanno 4, 5, 6 figli che cioè, ti dovrebbe piacere. No, beh, a parte che lui veniva da un viaggio in un posto dove, come aspetta, sai. Fermo. A proposito di papa. Senti, senti cosa è successo qualche giorno fa alle Iene, lo sai, no? Scherzi a parte, eccetera. Beh. Il dramma di Paolo Brosio, senti. Santo Padre, mi scusi se la interrompo, ma io oggi ho pregato il Signore perché nel mio cuore, adesso mi viene da commuovere, io nel mio cuore ho cambiato tanto la mia vita, sa? Ho trovato tutto a Medjugorje. Lei non sa quanto io, quanto ho aspettato un sacerdote come lei. Paolo? Paolo, come stai? Ciao, ciao a tutti, buonasera a voi. Eccoci qui. Senti, ma grande Brosio, grande, un abbraccio fortissimo. Ma che c'ha, mica gli è morta la madre? No, ma perché a me piace la sincerità. Lui era sinceramente commosso, cioè si sentiva il cuore. Beh, certo, di Brosio. Questo non c'è, mica, mica... No, stai zitto, ritroba la poesia. Si sentiva il cuore di Brosio, si sentivano le, si vedevano le lacrime anche se siamo alla radio. Si sentiva la voce tremolante. Questa questo è non c'è vita. Dubbio. Zitto. Questa è vita. Zitto. Questa è vita. È proprio a flatus, come si dice, è proprio il respiro, oserei dire santo, che si sente di un uomo che ha riscoperto se stesso. Grazie. Però scusa Paolo, adesso entriamo poi nel, sì, nel merito delle discussioni. No, ma davvero cose. Lo dico, Però siccome il Papa era una voce che non era quella del Papa, come diavolo hai fatto a cascarci? Questo, cioè, è più vero il Papa che facciamo noi, te lo posso assicurare. Sì. Cioè, il Papa che facciamo noi, con cui abbiamo incastrato un sacco di gente, è molto più simile al questo Papa. Come hai fatto? Questo mi chiedo, come? Come ho fatto? Intanto c'è da dire una cosa, che questo scherzo per il montaggio, ovviamente per esigenze di tempo, è stato ridotto nei minimi termini, ma c'è stato prima un'ora di intervista su quelle che erano già i momenti più difficili della mia vita, perché cioè, ti hanno preparato, tu dici, ti hanno preparato psicologicamente, dici. Sono arrivato lì, ero cotto a puntino, perché loro mi hanno chiesto proprio chi è Paolo Brosio, infatti cominciava così, no? Voi avete sentito, lui è Paolo Brosio, io ho cominciato a parlare, a spiegare quello che è successo nella mia vita, perché uno che passa da un certo tipo di vita, diciamo, del mondo, e passa poi improvvisamente a Medjugorje e cerca. Però scusami un attimo, scusami un attimo, non è una magia. No, no, certo, poi tu dici mi hanno preparato a puntino, dunque sei arrivato... La morte di mio padre, sì, agonia dei 50 giorni, l'incendio. Ho capito, però la voce del Papa, la voce del Papa l'hai sentita bene? Non è... La separazione, cioè io sono arrivato lì, ero cotto, no? Poi stavo spiegando che nell'ultimo libro, Raggi di Luce, c'è questa lettera aperta al Papa, dove avevo riscontrato delle analogie incredibili, cioè tra la mia famiglia emigrata a San Francisco, mia nonna Rosa, sua nonna si chiama Rosa, ho capito, ma il Papa del Monferrato Cinaio, certo, a 7 chilometri da Porta Comaro stazione d'Asti, dove sono partiti i suoi, e io ho detto, no, quando vedo questi attacchi agli extracomunitari, anche ieri sera sono stato come si chiama a Quinta Colonna, dove c'è questo attacco indiscriminato, sono tutti terroristi, tutti ma come? Io sono figlio di emigranti. No, però aspetta un attimo, fermo, torniamo. Ho capito, un attimo, Paolo. Al Papa io ho detto, io ho scritto questa lettera. Ho capito, ma il Papa, la voce non era uguale, era diversa. Ho capito, ma io ero emozionato già di mio, non è che vado cioè, lì poteva essere una cosa a chiedere il codice fiscale che mi fa l'intervento. Vabbè, ma un minimo di voce uguale deve essere. Ho capito, io scusate, io poi, se voi volete intendere con questi dubbi che io ero d'accordo con loro. Per carità di Dio, no, assolutamente, fermo un attimo che abbiamo il traffico, no, assolutamente, solo che siamo curiosi di capire, tu ci stai spiegando che eri cotto a puntino, hai detto, mi hanno cotto a puntino facendomi parlare della mia vita, le emozioni, la mia famiglia, eccetera, eccetera, e poi zacca il Papa, poteva essere qualsiasi voce, tanto comunque ci saresti cascato lo stesso. You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Allora, c'è da ricordare, a proposito del mitologico Paolo Brosio, è stato detto uno degli scherzi più belli degli ultimi anni, forse della storia, di Scherzi a Parte, eccetera, però bisogna ricordare assolutamente, altrimenti ci fa un mazzo così, ed è stato anche l'oggetto di una trattativa con Mediaset per la liberatoria di questo famoso scherzo. Questo non credo. Sì, come no, l'ha detto anche lui. Allora, no, adesso ce lo ricorda. Comunque, sta lanciando un'associazione, anzi c'è un'associazione che si chiama Olimpiadi del Cuore, paolobrosio.it, olimpiadidelcuore.it, fondi per la realizzazione di un presidio medico di pronto soccorso a Medjugorje. Beh, a Medjugorje, questo è molto buono. Adesso io voglio capire una cosa, scusa. Anche un cinico come te può dire no, che no, è una cosa molto buona. Anzi, vi invito a, a versare quattrini. Bravo, a chiamare Paolo Brosio e quello che volete. Io però voglio dire a Paolo una cosa. Caro Paolo, alla fine la trattativa per mandare in onda questo scherzo è stata veramente una trattativa, come dire, alla fine brutale, economica. Cioè, hai voluto che il tuo logo fosse presente? Allora, quando lo scherzo è stato fatto, io alla fine, avete visto, ho detto, ma allora voi siete di Scherzi a Parte? Io come potevo immaginare il 18 marzo 2013 che quella trasmissione sarebbe finita a Scherzi a Parte? Diglielo a Parenzo. In quel momento manco si sapeva che l'avrebbe condotta. Diglielo a Parenzo, amico mio. Paolo, 16 mesi dopo che io avevo diffidato le Iene, e quali mi avevano messo sul sito con le scuse di questo blitz, insomma, di quel giorno del 18 settembre 2013. E a quel punto? E poi mi chiama Paolo e dice: ho visto questo scherzo, che poi non è andato in porto, perché loro si sono ritirati, io mi sono accorto delle cose e non ho firmato la liberatoria, quindi non l'ho mandato in onda, non mi interessa. Paolo dice: è bellissimo, perché si vede che te, qui si vede che te non è che fingi o che ne vabbè fingi, Paolo è un maestro a convincere. E allora dice: qualunque cosa possiamo fare per te, per aver, io ho detto, per me niente, tanto che il gettone di presenza, lo dico perché queste cose... Quant'era il gettone? Quant'era il gettone? Tutti i miei bambini. Quant'era sto gettone? Quant'era il gettone? In ospedale Medjugorje. Quant'era sto gettone, Paolo? Okay. Scusami. No, quello non lo dico. Ma come non lo dici? Bisogna essere trasparenti al massimo. Ma quello non è... Io dico, il gettone va in beneficenza, prima cosa. E poi tutto quello che si può fare con l'azienda, aiutatemi in questa cosa che per me... Vabbè, loro metteranno i loghi nelle trasmissioni. Io ho presentato un anno fa il progetto con la mia piccola associazione per questo ospedale, non solo per i pellegrini cattolici. Ho capito, ma quant'è il gettone? Ma questo lo so, questo... I serbi e cristiani cattolici croati, pure buddisti, sono ammazzati nella guerra. Però scusami Paolo, scusami allora, un attimo. Io gli ho detto, si può fare con Media France il SMS solidale? Sì, si può fare. Nel giro di una settimana Paolo mi richiama e dice: si può fare. Massimo Ciampa, segretario generale di Media France, ha accolto la tua proposta. Ma quant'era il gettone? Sì, ma vabbè, cosa. Dai, su. Prega, ma che sia 100 euro o 50, ma no, è importante euro, capire la... 10.000 euro, io non ho preso neanche le spese di benzina. Appunto. E sono fiero, perché se si fa una cosa si fa fino in fondo, se no andiamo tutti a casa e buonanotte. No, ma io questo sono convinto che tu lo fai perché sei convinto e non vuoi un euro. Non te lo dico per rispetto per l'azienda, perché è una cosa riservata, ma perché devo dirlo? Sì. Cioè, però a me mi interessa che tutto quello che mi deriva da sta cosa vada agli ultimi. Senti una cosa, ma scusa, è il Papa che dice quello che ha detto sul matrimonio, no? Cioè sui cristiani che non devono... I conigli, eccetera. Ma alla fine non dovrebbe andare più avanti e dire allora sì al preservativo, che cazzo, o no? Ma a parte... Anche tu ti devi aprire a questa cosa qua. Lascia perdere le parole. Che bisogno c'è di dire una parolaccia? Ma io lo dico sempre, cazzo non è una parolaccia. Cosa, e che cosa, cos'è? Un argomento. Qual è l'argomento? Quello del pugno? Quello del coniglio? No, l'altro, il coniglio. Il coniglio. Vabbè, allora, guarda, facciamo una cosa. Secondo me. Aspetta, Paolo, ci fermiamoci un attimo, c'è il giornale radio, scusami. Ci fermiamo qualche minuto, c'è il giornale radio, poi torniamo con te. Paolo Brosio ci dice la sua sul Papa. E d'altra parte chi è che può dire, no, in questo momento può dire la sua sul Papa? È il più autorevole in assoluto. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No, paternità responsabile. Pronto? Sì, buonasera, signora Clio, sono Francesco. Volevo parlare col suo marito, non sono riuscito prima a telefonare. Ma lei chi è, scusi? Sono Papa Francesco, signora. Ho mandato un telegramma al signor Presidente e non sono riuscito a chiamare. Senta, prima. Ma qui non c'è nessun Presidente. Scusi, ha segreto numero. L'Arcivescovo mi ha detto che questo è il numero del Presidente congedato. No, assolutamente, sì. Io mi chiamo Clio e mio marito non è il Presidente. Mi perdoni tanto, signora. Prego, prego. Mi perdoni tanto. Prego, prego. Lei forse non sa quale che è il numero giusto, perché mi hanno passato... No, ma questo è Napoli, il Presidente sta a Roma, quindi non è proprio possibile. Addirittura Napoli, hanno completamente sbagliato numero. Mi dispiace molto, signora, di averla disturbata. Spero che lei possa... Ma di che nazionalità è lei? Io sono di Argentina, signora. Ah, Argentina. Ma lei chiama dall'Argentina adesso? No, signora. Io adesso, a dire la verità, chiamo dalle Filippine, perché dalle sono Filippine. In viaggio. Ah. Signora, lei è stata molto gentile e mi perdoni ancora. Prego, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Sul referendum bocciato. Ma come si permettono di rispondere così al Papa? Io che ne so, tutta il Papa fredda. Che chiama, che cerca Giorgio Napolitano. Ma disturbato, ma come si permette? Ma insomma, un po' di emozione, no? Una cosa incredibile. Salvini, giornata del cazzo, paese del, eccetera, eccetera. Dopo la consulta. L'unico cambiamento vero, reale, positivo per la gente che avrebbero potuto sostenere gli italiani con un referendum in primavera è stato fottuto, quindi veramente una giornata del cazzo, in un paese del cazzo, con un governo del cazzo, e spero che gli italiani si sveglino. Noi come Lega adesso faremo di tutto quello che... The headlines, news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Renzi, acceleriamo sulle riforme con buona pace dei fenatori. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro con Berlusconi che blinda il patto del Nazareno. L'assemblea dei senatori PD ratifica la linea di Renzi sull'Italicum, ma in 29 non votano i 5 Stelle sia gli emendamenti della minoranza dei democratici. Berlusconi chiede il sostegno di Forza Italia alla legge elettorale, ma 20 dissidenti in aula voteranno contro. Fitto, appoggiare l'Italia come un suicidio. La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il referendum leghista contro la riforma Fornero delle pensioni. L'ira di Salvini è uno schifo, è la fine della democrazia. Banche popolari, al CDM le norme che rivoluzionano il sistema e favoriscono le fusioni. Padoan, così si aiuta la ripresa. I mercati apprezzano, ma è scontro politico. L'ISIS minaccia di decapitare 2 ostaggi giapponesi e chiede 200 milioni di dollari per il loro rilascio. A Mosul, 13 ragazzi giustiziati perché guardavano la partita in TV. Espulso dall'Italia uno studente turco della scuola normale di Pisa, aveva manifestato simpatie islamiste in rete. Giovedì, in un decreto, le misure antiterrorismo. Discute di pippe mentali, come per me sono le discussioni sull'Italicum, come per carità è importantissima la legge elettorale, insomma, eccetera, certo, eccetera. È importante. Sì, è importante, ma no, la gente... è importante, basta che la spieghi così: preferenze. La gente, la battaglia non gliene fotte nulla. Ma la gente cosa vuol dire? Quanti deputati eletti con le preferenze? Populismo, quanti deputati? Allora appassionati di queste ma cose. Ma non è che appassiona, ma c'è un qualunquismo in sì, te. Sì, che un qualunquismo. Cioè sì, a te, sì, certo. fammi capire. Sì. Cioè a te non interessa sapere se si voterà mettendo il nome della persona con le preferenze o con le liste bloccate? Non ti interessa? No, certo che sì. A te piace un mondo così? Vabbè. A te piace un mondo così? A mi fa cagare un mondo così. Ma un mondo non c'entra niente questo. C'è una, certo, parte, una parte eletti con le liste bloccate, una parte eletti con quelle. Sono tutti giochi di potere, non c'è nulla di concreto. Potere, sostanza, non c'è politica. Nulla di concreto. Va bene, hai ragione tu. Allora, appassionati di questa roba. Appassionati, appassionati. Porto la mia. Mentre il mondo politico si appassiona dell'Italicum e delle sue ricadute sulle elezioni del Presidente della Repubblica, anche qui la gente fa fatica a capire. No, alcuni dicono bisogna votare per forza prima la legge elettorale, prima delle elezioni del Presidente della Repubblica. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Questo dice Renzi, no? Perché? Perché per forza si vota il Presidente della Repubblica e poi con tranquillità si la legge elettorale. Ha ragione, perché teme imboscate. Appunto, teme imboscate. Ecco, perfettamente ragione, teme siccome imboscate. C'è un sistema politico pazzo, ha perfettamente ragione a blindare tutto. Questa è la sostanza. Ecco, è diventato anche renziano adesso. Dopo essere stato bersaniano è diventato anche renziano. No, vabbè, adesso. Bene. Mentre il mondo politico si appassiona della questione della legge elettorale, è con noi il mitologico Paolo Brosio di nuovo. Molto caro bene. Paolo. Allora, quante volte preghi Paolo? Solo questo volevo capire. Quante volte preghi Paolo al giorno? No, allora, intanto la mattina. La mattina presto. Un'ora, tutte le mattine presto. Ma perché un'ora? Perché no, chiedo, la mattina non lo so. Presto, perché sennò non acchiappi più né la messa né la preghiera, perché poi inizia messa, il pion del lavoro, delle cose tutti i giorni, certo. E te la preghiera, sì, la faccio, non e la poi fai. Non la fai. Ma mica deve durare la un'ora. La mattina si prega nel silenzio e poi si va a messa, è la cosa più importante, la santa messa, ma il rosario. Cioè ogni giorno a messa vai. Le grane arrivano dopo. Quindi. Ma vai ogni giorno a messa? Per me è un'esigenza oggi, anzi è un desiderio, perché ogni giorno c'è un pezzettino del Vangelo che è una parola. Scusa, che... però uno deve avere anche il tempo per fare. Io non ci avrei tempo per fare andare ogni giorno a Tu fai altro. Per esempio, oggi non ho avuto tempo perché ero a Roma ieri sera. E come fai a recuperare? E non è facile. Come però... fai a recuperare? Però il rosario lo dici. Dici rosario. Tutti i giorni è il mio sogno, ma non è che tutti i giorni. No, certo, non è che mio. Vivo in un convento io. No, è certo, no, per carità, non vorrei mai. No, però il lavoro, le cose, le grazie. Senti, ma tu non famiglia, hai mai pensato di non hai mai pensato di farti prete in questi ultimi anni? Cioè di passare direttamente? No, non penso che Dio. Ora io non è che voglio avere la. Ma dalle guide spirituali mie mi dicono che il Signore vuole da me che io stia nel mondo, ma per portare un messaggio che messaggio, è nel mondo, nell'ambiente dove vivo io, alla zanzara, a scherzi a parte, negli ambienti. Cioè, dove, secondo te tu sei qui? Se tu parli a Radio Maria, dai un messaggio a chi già prega. No, certo, che nei posti blasfemi come questo. È qui che bisogna evangelizzare. È qui che bisogna portare la parola, ha in questo ragione. Posto blasfemo, è vero. Questo è il mondo blasfemo. È che posto blasfemo. Io sono stato un compagno di merende anch'io per mille cose, nel vabbè, lavoro, nella vita. Insomma. Poi dopo cambi vita, però io so come ragionano quelli che pensavano come me. Quindi per me è più facile parlare con quelli. Ma secondo te, Paolo, per un prete sia più. Certo, Paolo. È impossibile. Io andavo in chiesa, mi veniva un colpo a me. Perché no, ma Paolo, guarda. Non volevo neanche sapere di vedere un prete, di parlare di confessione. È vero, ma invece da raccontare i cavoli miei a uno che perché? Invece oggi ho capito che il prete è una cosa immensa. Immensa. Perché se te ti vuoi liberare dal peccato devi andare da lui, perché la chiesa è il corpo di Cristo. Beh, ce ne stanno di pedofili però anche lì, bisogna come? Dire. Ce ne stanno di pedofili, hai visto quello che è successo? I pedofili stanno da tutte le parti, Beh, però diciamo che lì prolifera. Lì fa più male. Lì fa però più male. La proporzione è molto inferiore, Bah. Quando c'è un sacerdote, ascolta, l'ha detto anche Papa Francesco quando tornava dalla GMG, sul volo con fa più rumore un albero che cade nella foresta. Beh, per forza. Che 10 milioni di alberi che crescono un millimetro ogni giorno. Però scusami, per ma forza. Quanti missionari che dà la vita nei paesi del terzo ho capito, mondo, amico, da quello d'accordo, hai ragione, però caro Paolo, è normale che faccia rumore. E c'è un milione di giornalisti o di ingegneri o di cose che sono pedofili e vabbè, quello va bene. No, allora, chi ha detto che va bene? Va sempre male. Che te gli affidi i bambini, ti ammazza. Appunto, mica un ingegnere affidi i bambini. Cioè, vogliamo perdonare anche gli altri, vogliamo. Scusa, ma tu lo perdoni? Ecco, ma un pedofilo? Ma un pedofilo? Non si può dire che. Come si generalizza, capito? No, scusami, come Paolo. Perché ieri sera dicevano che tutti gli immigrati sono delinquenti, ma no. Ma no, d'accordo, ma non ho detto che tutti i preti sono pedofili. Ma secondo te un pedofilo va perdonato? Un prete. Male, Giuseppe. No, ma un pedofilo va perdonato? Sì. Come io, se dovessi cadere adesso nelle mie tentazioni, nelle mie cose umane, nella mia fragilità, fa male. Ma un pedofilo fa male a me, fa male a tante certo, persone. Ma un pedofilo va perdonato o no? Io sono uno che adesso faccio il possibile io di seguire Gesù. Scusami, facile, no, ma non c'è dubbio, ma un pedofilo va perdonato secondo te? Ma vanno perdonati tutti, però. Cioè, anche un pedofilo va perdonato. Deve essere messo in condizioni di non nuocere più. Vabbè, certo, sì. Però va perdonato. Perché che se c'è un prete pedofilo si sposta da una diocesi all'altra, capito? Questo però la Chiesa ha fatto. Questo è stato fatto nel passato, ma dopo Benedetto XVI, sì, che è stato il Papa che ha fatto più leggi severe di tutta però la Però vanno perdonati o no sti pedofili? Sì, vanno perdonati. Anche i pedofili vanno perdonati, ho capito. Ma perdonati tutti. Se non perdoni. Senti. Io voglio capire una cosa, cioè, la frase. Il perdono è diciamo l'antidoto alla violenza, perché si ferma il circuito. Beh, io i pedofili non li perdono troppo. Però comunque Paolo, una cosa, due cose velocissime, però devi essere molto breve. Torna a fare il giornalista, la sintesi. Tu che sei sempre stato sul pezzo nel passato. Ma la prima cosa è questa: vorresti una telefonata dal Papa, dal vero Papa, dopo quello che è successo? Ascolta, io se facessi un incontro col Papa sarei impazzire dalla gioia. Cioè moriresti, potresti morire. Sarei felice, talmente felice, perché oggi per me questa è la felicità. Allora fai un appello un attimo al Papa, tanto il Papa sente tutto. L'appello, ascolta, Papa, cioè io voglio che le cose vadano come sia la volontà di Dio. No, però fai un appello, chiamami, anche felice, però oggi avrei dei problemi, che se mi chiama il vero Papa, capace che magari lo manda quel paese, perché penso sia l'altro scherzo. Beh, su quello non c'è dubbio. Un'altra cosa che ti voglio chiedere è questa: ma il Papa ha detto adesso non abbiamo tempo di commentare questa roba qua dei conigli, eccetera. Dei conigli. No? Ma dovrebbe fare un passo avanti il preservativo. Tu lo usi il preservativo, Paolo? Ascoltami, non è questione del preservativo. Come è questione che se te ami una persona, i figli che ti arrivano sono un dono di Dio. Però il padre, e quindi è volontà di Dio ciò che arriva. Però il problema è un altro. Il Papa ha voluto, secondo me, con quella frase, responsabilizzare la gente sul fatto di mettere al mondo un figlio. Ho capito, ma allora bisogna. Oggi non puoi mettere al mondo i figli così, poi ti separi, ognuno va a casa sua perché c'è il divorzio. Ho capito, Paolo, allora dovrebbe fare un passo in più il preservativo. Il preservativo, secondo me, è importante, soprattutto alla luce delle malattie che ci sono oggi. Però tra moglie e marito, che fai? Usi preservativi? Vabbè, ogni tanto, perché che c'è di male? Non ho capito. Te hai una moglie. Ma tu l'hai usato? L'amore, il sesso è amore. Ma tu lo usi o no? Lo usi o no sto preservativo? Lo usi o no sto preservativo? Io in questo momento qui ho altri problemi, nel senso che io ho offerto un voto a Maria, alla Madonna. Cioè sei in castità? Aspetta. No, affinché potessi ottenere come fioretto, limitato nel tempo, perché non è nelle mie corde di fare una roba del genere, di ottenere l'annullamento del primo matrimonio. E vabbè, che c'entra questo col preservativo? C'entra, perché non pratica, se offro un sacrificio, una castità, la offro a Gesù, a Dio, che ha sofferto per noi. Da quanto tempo è che non fai nulla? Da quanto tempo è? Per ottenere questo dono, di potermi ricostruire una vita. Ma da quanto tempo è che non fai niente? Io non vado con un'altra donna in questo momento. Da quanto? Non si può dire signore, si va in chiesa, poi ognuno si fa le leggi come vuole. Ma da quanto tempo è? Da quanto tempo è che non vai? È quello. Ma da quanto tempo è che non vai? Da quanto tempo è che non vai con qualcuno? Sono 2 anni e mezzo. Ti abbraccio tempo, fortissimo. Ne ho combinate di cotte e di crude, ma fammi offrire qualcosa per la Madonna. Ciao, a presto, ciao. Sì, pronto, le caguli. Dalla provincia di Venezia ci chiama un signore che leggo qui Talbi, che nome è Talbi? Chi è? Talbi, sono Italo Tunisino, oh porco maiale, ce l'ho con te proprio, Diego, disgraziato, Diego, tanto ciao, e ieri mi hai fatto perdere 10 minuti della mia vita, divertimento con te Parenzi, parlavi con quel maledetto di Catania, ma che cazzo me ne frega a noi, dillo. Tu dovevi staccare subito telefono quel signore là. Noi dobbiamo parlare di figlia. Che ne so. No, non ho capito, scusa, Talbi. Innanzitutto non ho capito. Talbi. Italo-tunisino. Italo-tunisino. Vabbè, non c'è niente di male. Ti credo. Questo no, certo, assolutamente. Signor Talbi, dalla provincia di Venezia. Sì, non ho capito l'oggetto della sua. Non ho capito, abbiamo parlato ieri. Abbiamo parlato anche di preservativi. Tu ieri, porco. Perché porco? A proposito, io ho sentito che tu sei un ministro, un sottosegretario di Troia, mi pare. Passami uno se ce l'hai in più. No, ho sbagliato persona. Comunque lasciamo stare. Ieri, tu ieri hai parlato con un signore di Catania, conservativo, e mi hai fatto perdere a me 10 minuti della mia vita e divertimento con la tua trasmissione. Ieri quasi quasi ammassavo io. Ma perché? Scusa, che ho fatto? Tu non devi parlare con quelli perché lui diceva che tu sei stupido. Stupido è lui, tu sei il re della radio. Se tu vai vedere questa radio e io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di gnappi. Non capisco, però, diciamo, non ho grazie capito. Intanto. Non ho capito, è una critica o un elogio? Io non ho capito bene. Porco perché... lo usa come positivo, mi pare no, di capire. No, va bene, dai, insomma, dai, tu sei il re di questa radio qua. Quelli con quell'imbecille là, non devi parlare troppo. Stacca, parla con le fighe, dico. Oh, grazie a te ho visto quelle lì, quel mio amico, io non so usare quelle televisioni, e il mio amico mi ha fatto vedere quella mia app là. Ma chi? Hai visto com'è? Ma chi è questa qua? Chi è? È il mio amico che mi ha visto, guarda, io non so usare quel telefono là. Lui mi ha detto, dai, Crosciani ha detto questa porno. Ma chi? La pornostar la libanese, la Mia Khalifa? No, gnappi. Ah, gnappi. Quella... Mica, grazie Crosciani, oh, per favore, non grazie. Sta per perdere. Sa cosa grazie, mi ha fatto la mia moglie? La mia moglie mi ha preso radio sul serio a casa, perché io non arrivo col camion presto. Arrivo tardi per ascoltarti te paresso. Adesso lei mi ha preso radio e mi fa, va bene, dai, entri prima e vai sulla tua stanza e senti. No, non ho capito. Non ma tempo. Secondo me, scusa, Talbi, tu sei italo-tunisino come io sono napoletano. No, italo-tunisino. Che cazzo se ne frega? Intanto siamo. Oh, mica. Se c'è qualcosa in più, crociare, dai, fammi piacere. Passami una, Diva. Santo, sei sotto. Ma lei è un satanato. Scusa, passami una, c'è donna. Ma non è mica uno spaccio di prostituzione questo posto qui. Oh, amico mio. Parenzo, io e te siamo parenti, Diva. No, tu adesso parlare solo di religione. Non facciamo diffamazione qui a Gravata. Siamo parenti, io sono musulmano. È un coso ebraio perché lui non mangia maiali e io non mangio maiali e siamo uguali, siamo cugini, dopodiché cugini, la sua fame di toppa, diciamo, come sta mostrando. No. Trombo, ma non mi basta una moglie, non mi basta una poco cara. Beh, amico mio, perché capisci? Chiama qui, però il punto è sempre questo, cioè lei chiama, chiamo il mio amico Crosciani, scusa, io non ti conosco, è un amico tuo mio. Amico, no, l'ha dichiarato, dai, è un tuo amico questo, ma non è mio amico, pervertito, è un camionista. Per avere peraltro da Radio 24 numeri di donne, ma c'è, stiamo veramente, ma che è un bel ambiente questo, ma che è un bel ambiente, sei il re della radio, ma questo adesso che c'entra, lo ammazzo, Dio, questo è buono, per avere guarda, come guardia del corpo un camionista italo tunisino non è male, però, lo faccio io. Oh, se non parli di figa, io adesso scendo la RA al baracchino, brecco baramoscia, oh, qui a quella nera Crosciani non parla più di figa, tutti chiudono la radio, attento, parla di figa per favore. Scusi, a noi non frega il caso di tunisino. Ciao Davi, ciao. Ciao, grazie. È un tuo amico questo, mai chiaro. No, mai... che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Appunto, hai ragione. C'è sempre meno figa. Ma... Da voi in trasmissione. Adesso qui non è che si vede poi, cioè sì, c'è la webcam, se volendo, però non è che si vede. Cioè, fa passare dal signor Gotor al signor Talbi. Sì, no, pronto. Talbi. Che telefona per avere dei numeri. Passami dei numeri, ha detto. Ma guarda, cioè, questo lavora tutto il giorno. È normale, no? Sì, cioè... ma perché chiama noi e non chiama Barisoni, ad esempio, no, per avere quello, certe Barisoni, cose. Esatto, signor Parenzo. Al massimo gli può dare un consiglio su come investire i pochi soldini che c'ha a casa, il signor Barisoni. E invece chiama qui per altro. Massimiliano da Mantova. Massimiliano da Mantova, vai. Andiamo, salve Crosciani, salve Parenzo. Ciao Massimiliano, ciao. Buonasera. Allora, io volevo dirti che sono incazzato come una bestia. Con chi? Con che cosa? Con chi? Con voi, con Repubblica, al Corriere della Sera. Non perché? Si può mistificare un convegno come quello di Milano. Sì, perché? Perché è stato fatto tutto ad hoc. Cioè, come dovesse necessariamente restare un ricordo. Il complotto contro quelli che vogliono la famiglia tradizionale. A proposito di famiglia tradizionale, mi ripescate un mitologico con calma. Un mitologico Antonio Albanese? Con estrema calma. Massimiliano, Antonio Albanese, c'è un pezzo di un film che ho ripescato ieri sulla famiglia tradizionale, che è stupendo, meraviglioso. Allora, Massimiliano, che stavi dicendo? Niente, che non si può mistificare un convegno dove 2000 persone... Mistificare, stiamo ragionando, ragionando. Abbiamo detto che c'era un prete pedofilo. C'era un prete pedofilo. Una parola sul convegno. Ma chi se ne frega, il convegno? Chi se ne frega, vabbè. Allora si tratta delle cose così, che giornalisti siete, ma non ho capito una cosa. A me, parlate di quello che... un prete pedofilo che pedofilo non è, perché se ne prova contrario un cittadino... Ma non lo è. Non è pedofilo. Non è la Chiesa. Ma la Chiesa è... Per la Chiesa è pedofilo. Ma per la Chiesa è pedofilo. Ma lo dice la Chiesa che è pedofilo. Lo vuole... C'è il comunicato della diocesi di non so che cosa, di Cremona, di Crema, eccetera. Ma lo vuole leggere o no? Lei è cattolico, immagino, no? Sì, è cattolico, credente, tutto. Ma sì, allora, il comunicato della diocesi di Cremona, allora, benissimo, Crema, perfetto, è chiarissimo. Questo prete è pedofilo. Punto. Perfetto. Allora, quindi se lei prende per punto... Ma è pedofilo, vuol dire anche che magari ha solo toccato il culo. Io non lo so. Comunque è un pedofilo. Non è che necessariamente... Solo, vabbè, nel senso... ma non si può utilizzare solo quel amico mio, questo qua ha compiuto degli atti gravissimi nei confronti di minori, gravissimi, questo prete, secondo la Chiesa stessa. Ma dove c'è scritto? Vabbè, ma è una cosa incredibile. Dove c'è scritto questa cosa qua? Ma una cosa incredibile. Ma non è che la Chiesa... Ma perché è stato sospeso? Perché è stato sospeso? Perché è stato perché gli è stato consigliato di... Perché ci sono dei dubbi, dei sospetti. No, non è perché solo non questo. Non è stato condannato da nessuno. No. Ma lasciamo perdere questo. Vi indignate che c'è un personaggio che è sospettato di questo? Non è sospettato, non è solo sospettato. 120.000 euro per educare e formare. Chi? A una ferro ortodossia. Ma che ha detto? Che quella LGBT. Non l'ortodossia LGBT, certo, l'ortodossia dei gay, il complotto gay nel mondo per distruggere la famiglia italiana. Andate ma dai, a educare i nostri figli dicendo che si può fare quello che si vuole. No, quello che si vuole. Che ognuno può fare quello che gli pare. No, perché ma se uno dice, certo. Scusa, Massimiliano, non ho capito. Ma se suo figlio è gay, lei che fa? Io niente, per l'amor di Dio, ma che vuole che faccia mio figlio? E che ne so, magari lo amo come un figlio. Magari lo porta, da un medico, che ne so, tutto è possibile. Ma ci mancherebbe altro. E alcune delle associazioni che hanno promosso quel convegno, in realtà pensano che sia buona la teoria riparativa. Non dite stupidate. Ma come no, è così, una di quelle... Aiutano gli omosessuali. Ma non c'è bisogno di aiutare nessuno. Se un omosessuale e gli piace... Ma se non mi sente in condizioni personali perfette. Scusa, ma se io ti dico... Scusa Massimiliano, abbi pazienza, ma se a me mi piace il cazzo, no? adesso beh, io sono, adesso mettiamo questo... che mi piaccia il pisello, diciamo che adesso sono 19:46, no, mi piace il pisello. Perché devo essere malato? Perché sono malato? Cioè perché ma che ho... malato? No, perché ho qualcosa di strano? Che se una persona non si sente in una condizione perfetta con se stesso e chiede un aiuto, c'è un'associazione che gli dà una mano. Sì, ma perché dove proprio per ma perché proprio per gay? Ma gli dà una mano perché cosa? Ma gli dà una mano perché cosa? Perché magari una persona si sente bene con se stessa, perché magari la sua questo vale per qualsiasi cosa, che vuol dire? Magari non si sente bene con se stesso semplicemente perché non è accettato. Non è che faccio che alle persone strane non sei omosessuale ti aiuto. Sono gli omosessuali stessi che non stanno bene con se stessi che vanno a chiedere una mano. È una cosa inversa. Forse questo non vi è chiaro. Perché un omosessuale secondo lei non sta bene con se stesso? Perché se qualcuno, ma perché mi sembra una cosa anormale se uno non sta bene con se stesso e chiede una mano? Ma fatemi capire. Ma ho capito, uno può chiedere una mano. Uno può chiedere una mano per qualsiasi cosa, ma chissà perché nasce. Alcune associazioni nascono per dare assistenza agli omosessuali che non hanno bisogno di assistenza. Perché stanno benissimo. Stanno benissimo come omosessuali, si sentono bene. Vogliono. Ma chi lo dice questo? Ma andate a chiedere allora il lavoro che fa obiettivo. Massimiliano, a chiedere cosa fa. Ti do un bacio in bocca con la lingua. Sì, guardi, io non lo accetto perché non mi piace con la lingua come uomo. Ottimo. Lei non mi piace nemmeno come uomo, ma lasciamo stare questo. Peccato, indignati per 120.000 euro delle vostre tasche che saranno per educare chi? I nostri figli. Sì, andrò a chiedere a Zingaretti Regione Lazio, andatela a chiedere. Vabbè. Andatela a chiedere cosa fanno con i nostri soldi. Ciao. Antonio Albanese e la famiglia tradizionale, che film era? Dopo me lo ricordo. La più tradizionale delle famiglie, Gesù, Giuseppe e Maria. Mi scusi, eccellenza, mi scusi, colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio illegittimo, il compagno di lei, non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale? Scusa, era solo per precisare e lanciare il dibattito. La cosa eccezionale, Parenzo, che era tutto niente niente il film, è che c'era questo specie di, c'era questa specie di convegno dove erano tutti i preti, no? E c'era, sì, il convegno sulla, sì, famiglia tradizionale, interviene albanese e dice quello che ha detto, stupendo. Che sembra un po' quel ragazzino, che quel ragazzo che è intervenuto al convegno lì della settimana scorsa. Ma è con noi Paolo Becchi da Genova. Buonasera. Eccolo. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori da Genova. Come andiamo? Come che dice Genova? Che dice? Che si dice? Beh, siamo al centro del mondo. Siamo al centro del mondo. Mi dicono fa freddo pure qua. Beh, fa freddo, casini allucinanti, altro che freddo. È il 20 gennaio, che devi fare? Professore, mi dicono che lei ha incontrato Cofferati. È vero però, ma casualmente, del tutto casualmente. No, lo giuro, stavo passeggiando, sì, al porto domenica, sì, perché ho la pressione alta e quindi devo fare una passeggiata. Purtroppo. E casualmente l'ho incontrato, l'ho salutato e gli ho fatto i miei complimenti perché se n'è andato da quel partito di mafiosi, insomma. Mafiosi? Sì, quello che è, insomma. Sì, quello, certo, che è successo a Genova, insomma, è abbastanza... Cioè, gli ha fatti i complimenti, ma... Sì, gli ho fatti i complimenti, sì, devo dire la sincera verità, gli ho fatti i complimenti. Perché se n'è andato dal PD, che è un partito di... Esatto, sì, sì. E lui come ha risposto? Ah, mi ha stretto la mano, poi ci aveva una mano, sai, deve aver avuto un problema, non lo so, sì, sì, caduto, sì, o meno. Sì, c'ha il braccio Esatto, sì. Mi ha stretto la mano e poi niente, sì, ma è stato del tutto casuale, erano il primo pomeriggio, una bella giornata di sole. Il grande inciucio, 5 stelle, Cofferati, il grande incontro, Paolo Becchi incrocia Sergio Cofferati, che succederà adesso? Ma non so come l'avete saputo, perché è una cosa... Amico mio, a Genova arrivano sempre certe voci. Arrivano, eccetera, manine, nastri, foto. Ma io non ho capito, dunque ha fatto bene a lasciare il Partito Democratico, lei che... Secondo me sì, io gliel'ho anche detto, gli ho fatto i complimenti. Cioè lei lo voterebbe se fosse candidato, sì, lui, sì, o no? Ma guarda, una lista civica, io ho scritto che una lista civica, nella confusione totale in cui siamo adesso, una lista civica presentata a Genova, quindi indipendente dai partiti, potrebbe avere una grossa chance, perché insomma da una parte c'è un PD che insomma è... rappresenta per la città un cancro, quindi cioè, un questo cancro. È il dato di fatto. Come un cancro. Un cancro, dice un cancro. Ma no, lo dice, non è che si può dire così, dice un cancro. Vabbè, insomma, io la vedo così, la destra è inesistente, il Movimento 5 Stelle pure, non è che stia navigando in acque molto molto sviluppate, a questo punto credo che effettivamente lui potrebbe avere una grossa opportunità, che se lo voglia però fare. Però non lo farà. Credo che non lo farà. Però lei mi sta dicendo una cosa molto interessante, professore, che è questa: se scendesse in campo con la lista civica, potrebbe prendere anche molti voti grillini, che sono un po' allo sbando, diciamo la verità. Ma io ho la vaga impressione che farebbe il botto. Farebbe il botto perché... E anche lei lo potrebbe votare. Ma non lo so, guarda, ci dovrei pensare perché farebbe veramente... il botto, poi insomma Cofferati è quello che ha portato in piazza milioni di persone contro l'articolo 18, insomma, cioè per la tutela dei lavoratori, quindi devo dire che potrebbe veramente avere una forte attrazione. Senta, professore, si è sviluppato un discorso ieri alla Zanzara qui sull'uso del preservativo, adesso facciamo un piccolo derapage, una piccola deviazione sui temi classici della politica, poi parleremo del Presidente della Repubblica, dell'Italicum, lei è incazzatissima, anzi no, facciamo subito l'Italicum, così ci togliamo subito questo pensiero sull'Italicum, una cosa di cui non vorrei parlare, però il professore è incazzatissimo con questa storia dell'Italicum, con questa fretta, no? Con questa fretta nell'approvare l'Italicum. Ma e con i capitalisti bloccati. Scambio. Qui c'è uno scambio tra Berlusconi che vuole i capolista bloccati e il voto alla lista che invece viene richiesto da Renzi. Si sono messi d'accordo, tu mi dai il voto di lista, io ti do il capolista bloccato, il gioco è fatto. Però c'è da dire, attenzione, è un accordo tra mafiosi, secondo lei è un accordo tra banditi? Ma questo è un accordo politico, no, lasciamo perdere, questo effettivamente è un accordo politico, uno lo può contrastare, però il dato di fatto è questo, e mi pare però che ci siano dei forti mal di pancia sia all'interno del PD, insomma questi due per andare d'accordo stanno distruggendo entrambi i partiti. No, ma questo è vero, però professore, io dico una cosa, in tutto questo, vabbè, i 5 Stelle, lei è molto critico per quello che è successo, che fanno? Non mi sembra che abbiano voce in capitolo, ormai sono fuori dalla partita o no? Fuori dai giochi. Ma guarda, totalmente. Io penso che potrebbero rientrare alla grande. Come? Facendo con le quirinarie. E perché non vengono convocate queste quirinarie? Questo è io che te posso dire. Un momento, c'è ancora tempo. Sì, cioè, però secondo me lì loro pensano di trovare. Io spero, il 24, tu sai, c'è questa notte dell'onestà. Vabbè. Io spero che invece di trasformare questa notte dell'onestà in una notte della Repubblica, da lì parta l'idea di fare delle quirinarie aperte. Ma quirinarie come? Su web? Come la solita cosa del web? Ancora. Esatto, esattamente come nell'aprile. Ma tanto vengono fuori i nomi che ci sono sul Fatto Quotidiano, guarda che scompiglio aveva creato la candidatura di Rodotà, chi lo sa? La rete è un'intelligenza collettiva, noi non sappiamo. Un'intelligenza collettiva. Sì. Ma secondo lei chi uscirebbe fuori? È un po' come lo Spirito Santo, soffia dove vuole. Oggi Beppe Grillo ha detto che chi vota il Partito Democratico o è un broker della finanza, un uomo della finanza, oppure uno della banda della Magliana, un ex della banda della Magliana. Antonio Razzi, ieri qui alla Zanzara, ci ha detto che lui vota solamente uno che dice Berlusconi, perché Berlusconi è un genio assoluto, è l'unico genio presente sulla Terra. Arriva. Scusami, per cui Berlusconi, se ti dice di votare un nome per il Quirinale, tu lo voti? Se me lo dici Berlusconi, lui è il genio, lui che sa chi mettiamo. Cioè, per cui chiunque ti dice di votare, tu lo voti? Beh, ci mancherebbe. Che ne so. Ma io sono fedele non solo a lui, ma sono fedele al partito. Persino Totò Riina. Se Berlusconi ti dice, che ne so, votiamo, anche se dovesse votare Totò Riina, tu gli dici sì, voto Totò Riina. Beh, se l'ha deciso lui è il genio. Ma come? Se diciamo quello fa bene le cose per l'Italia. Riina. Ma a proposito di Razzi, c'è una grande guerra in corso, uno scontro epocale. Antonio Razzi, anzi, la famiglia di Razzi contro David Parenzo. È uno scontro. Sì, epico. Amico mio, è uno scontro all'ultimo sangue. Ci sarà sicuramente un vincitore e uno sconfitto, non si faranno prigionieri. La famiglia Razzi è furibonda nei confronti di Parenzo per quello che ha detto durante Scherzi a parte. Senatore Antonio Razzi. Che ne penso? Peraltro in questa veste rosata. Ma è più credibile vestito così che no quando lo vedi in Parlamento? È più credibile vestito così. Ma deve fare questo, cioè la cosa allucinante è che senatore, tu hai detto giustamente. Sì. Cioè senatore, cioè, una volta questa parola qui aveva una dignità, poi dici che non mi devo incazzare, che non devo fare le trasmissioni come facciamo noi, ma uno di fronte a questa cosa qui deve ridere, sorridere. Parenzo insiste e attacca ancora Razzi davanti a milioni di italiani. si guarda indietro e dice: ma una volta chi c'era? Almirante, La Pira, Fanfani, financo Bettino Craxi, Andreotti con la gobba, tutti i suoi segreti, Cossiga. E adesso ci abbiamo uno vestito che è senatore, amici miei, senatore! Membro, già membro della Commissione Cultura. Ah, cioè, certo, membro della Commissione Cultura, con la cultura con la C, cultura certo. Con la C e non con la K. Insomma, Parenzo si è voluto fare bello davanti a Bonolis. Detto quel la che reazione pensi. Di Razzi non si è fatta attendere. Una furia nei confronti di Parenzo. Ma è vero che sei incazzato con Parenzo? No. Sì, sì. No, queste per me è da scomparire dalla vita. A finite, perché io non sono uno che porta rancore, porta quelle. Ma da lui non me l'aspettavo. Ma sai cosa? Aspetta, senti. Va a fare le cose, va a fare Lufregni vicino a Bonolis. Ma che cazzo da pezzo da minuti qui? Ma amico mio, ma ho detto le stesse cose che dicevo. Ma che va a lavorare? È che non rompere i coglioni, va a lavorare, capito? Ma che ha fatto? Scusa, non mi ricordo che ha fatto. Aspetta, fammi battagliare con Razzi. Io non me lo ricordo e non me lo voglio ricordare più. Ma guarda che ho detto esattamente le stesse cose che ti dico alla radio. Non voglio sentire niente. Io non vado mai a criticare in televisione un amico, almeno se ma che amico, ma è uno sketch. Ma che cazzo di scherzo, uno scherzo lucato. Ma scusa, eri vestito come un supereroe, quello dice a me. Ha un senso di rispetto non solo per l'amicizia, ma anche per il ruolo che ricopre. Ricopre chi? Non va bene. Scusami, Razzi, ragiona un secondo. Con un altro giornalista. Ma scusa, ma è chiuso, con Parenzo è chiuso. Non so che cosa succedeva. Quelle cose lì me lo devi dire quando sono presente. Non si parla mai di uno. Io non sono presente, eri registrato lì, non mi ricordo neanche dove, vestito da supereroe. Che facevi? Sei registrato, però stavi vedendo la. E te credo. Guerra continua. Siamo con Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università di Genova, forse ex grillino, ancora grande lettore del Movimento 5 Stelle. Caro Becchi, a questo punto il podio di chi non vorresti sul Quirinale. Iniziamo dal numero 3, cioè i peggiori che proprio per i quali scapperesti magari dall'Italia. Iniziamo dal numero 3. Insomma, secondo me, ma ormai per fortuna, insomma, questo pericolo mi sembra scongiurato. Io metto primo, secondo e terzo, per me il grosso pericolo era Prodi, però mi pare che sia stato scongiurato. Non è detto. No, secondo me è stato scongiurato perché, insomma, non trova sponda da nessuna parte. Viene votato da molti grillini, non si capisce perché. Poi tra l'altro rappresenta, viene votato da molti grillini, ma non da Grillo che l'ha scomunicato. È vero, Grillo l'ha scomunicato, d'accordo, però Casaleggio per esempio ha qualche legame con Prodi. Qual è il legame? Io questo non lo so, però insomma il blog era molto chiaro su Prodi, quindi come si fa a votare Prodi e poi fare la campagna sull'euro dall'euro? Sì, cioè, no, infatti è una contraddizione in adiecto, non è possibile. Com'è la contraddizione, scusa? È una contraddizione dell'oggetto stesso. No, ma l'espressione com'era, l'espressione in latino? Contraddizio in adiecto. Siamo veramente al top. Contraddizio scusa, com'è la parola? Adiecto. No, ma scusalo, non ha fatto liceo classico. No, io ho fatto liceo classico, non mi ricordo più un cazzo. Questo è il problema. D'accordo, però è un modo di dire per dire che sarebbe una contraddizione troppo. Vabbè, questo dici, secondo te è scampato. Dunque, il primo in assoluto sul podio. Sì, abbiamo. Però guarda, a me non va a fare questa cosa. Io la cosa importante perché non rilanciare le Quirinari? Chissà che nome posso uscire. Cioè, voglio dire. Ma uscirà Rodotà. Uscirà Rodotà. Ma che poi Rodotà è contrario pure a un sacco di cose di Grillo. Ma non lo so se uscirà Rodotà. Di nuovo. Ma chi vuol che esca? Rodotà, scusa, che ne so, cosa vuol dire le Quirinarie? Cos'è? Dubbio, però Giancarlo Magalli, perché, che ne so. perché non fare le Quirinarie come non lo so, perché evidentemente... Ma cosa sono le Quirinarie, amico mio? Non fatemi arrabbiare subito. Cos'è? Cos'è la scelta dell'elettore? Che cos'è? È la scelta da parte degli iscritti al movimento attraverso la rete di quello che per il movimento potrebbe essere il candidato. Cosa c'entra la rete adesso? Nell'aprile del 2020. No, ma ha ragione Becchi, se uno l'ha utilizzato fino adesso, uno dice che non serve più e si sceglie attraverso un altro metodo, oppure si continua. È una follia anche, fu una follia allora, la criticai allora, la criticai, erano le Quirinarie in rete, ma di cosa state parlando? Ma guardate che lo fanno anche in Germania. Eleggere Napolitano, furono costretti a eleggere Napolitano messi in difficoltà dal Movimento 5 Stelle, non dimentichiamolo. No, è vero che qualche effetto politico lo produce. Una battaglia siamo in un'altra tra epoca. Il valore nullo. Senti, hai visto Napolitano ancora un sacco di privilegi? È tornato a Prati, al quartiere Monti, a casa sua. Che dici di questa uscita di Napolitano? Ti saresti aspettato, che ne so, i carabinieri fuori dal Quirinale? Ma no, io mi sarei aspettato che dopo una persona del genere che abbiamo mantenuto dall'età di 18 anni fino a 90 dicesse, vabbè ragazzi, io a questo punto il posto da senatore a vita rinuncio. Insomma, in senso di solidarietà per tutti i disoccupati che ci sono in Italia. Invece no, l'abbiamo mantenuto da 20 anni fino a 90 e continueremo a mantenerlo chissà ancora per quanto tempo, diciamo. È una cosa abbastanza vergognosa. Cioè, ma comunque... tu dici, siccome ci è costato, hanno fatto un calcolo, non so quanti soldi. Ma poteva rinunciare, se non altro, a essere senatore a vita, insomma, poteva tranquillamente farlo, sarebbe stato un gesto di grande, così, di grande nobiltà d'animo. Ma invece l'uomo com'è, secondo te? Continuerà e andrà a votare, chissà che cosa voterà, non lo so. Tra l'altro mica è un criminale, No, e chi l'ha detto? No, sto dicendo questo, sto dicendo soltanto poteva fare il gesto di mettersi da parte. Io non ho capito, sembra che i mali della Repubblica siano Napolitano. Beh, diciamo che Napolitano Napolitano ha attraversato un lunghissimo periodo di questo paese. No, dai. Ma scusa, perché sei un reato? Uomo al servizio del paese. Se la tua tesi è che noi siamo in mezzo alla merda, qualche responsabilità ce l'avrà anche suo signore, o no? Altrimenti uno che responsabilità c'ha? Nessuna, qualche responsabilità. Ma quali sono le responsabilità? Piccolissima responsabilità ce l'avrà pure lui. Le responsabilità di Napolitano, ministro degli interni, se non fare un'ottima legge, la famoso Turco Napolitano, dal nome dei due, una delle migliori leggi fatte. Ricordiamoci anche della Terra dei Fuochi, Ricordiamoci anche della Terra dei Fuochi, dove insomma cercò, se non ricordo male. Scusa, allora per risparmiare questi soldi, per risparmiare la Terra dei Fuochi, adesso Napolitano non è che è stato governatore della Campania, ma scusami. Però come ministro degli interni aveva delle responsabilità. Sì, ma chiunque ha avuto responsabilità, questo voglio dire. Non è che uno si può chiamare fuori. L'incarnazione della Repubblica Italiana dal 45 in poi. Una delle incarnazioni è Napolitano. Vattene in pensione una volta tanto, no? Dimmi una cosa, Paolo, ma per risparmiare questi soldi, che dovremmo fare? I soldi dello stipendio di Napolitano, di quello che resta, tutti i privilegi? Ma non si fa assolutamente niente, nel senso che lui ricoprerà la carica che gli spetta di diritto, sicuramente, di senatore a vita, insomma, ecco. Auguriamogli lunga vita, insomma. Lunga vita? Cosa possiamo fare? A chiunque auguriamo lunga vita, quindi auguriamogli anche lui, ecco. Però voglio dire, sarebbe stato un gesto di nobiltà di dire, ragazzi, insomma, sono qui da 20 anni, adesso veramente mi vado a occupare dei miei nipoti, ma lasciatemi in pace, mi dimetto anche dal Senato, ecco. Non so, magari se magari per risparmiare uno dice, vabbè, per risparmiare per cosa? Chissà per quanto tempo ancora dovremo pagare, no, lo stipendio, privilegi vari da ex presidente della Repubblica, dico io, no? Certo. No, però dico una cosa, giustamente mi consiglia, mi manda un messaggio un mio amico, no? E mi dice, scusa Parenzo, tu che dici che è una follia le Quirinarie, io posso anche essere d'accordo sul fatto che ma tu ti rendi conto che propongono Castagnetti o Mattarella? Sì, è un'obiezione intelligente. Mattarella! Scusate, un'obiezione... hanno proposto anche Casini! Scusami, è un'obiezione intelligente, dopodiché il nostro sistema, la forza di questo Parlamento a Camere riunite, tutto chi dovrà tutti coloro i quali, ma meglio di Castagnetti, se la sarà... forza e l'autorevolezza di questo parlamento sarà quello di scegliere una persona il più possibile vicina al paese. Vabbè. Questo non c'è dubbio. Beh, no, beh, questo vicino è ovvio. Al paese, che vuol dire vicino, no, al paese? Senti, dai, sentita come tale, una figura che non sia estranea, no, al, sì, al sentire Amato, comune. Amato benissimo e sentito benissimo, ma dal paese. No, Amato, ma guarda, guarda, è perfetto, scusami, dai, non è so che se votano quattro squinternati, non, dai, voglio che passi il concetto, non voglio che passi. Io credo che non è che siccome se votano quattro squinternati nella rete, allora quello funziona bene perché non è democratico. Non ho detto che funziona bene. Perché quei quattro squinternati e lasciaci a noi questa possibilità. E giocate, ma giocate al Monopoli, giocate alle Quirinarie, fate no, risico, Rodotà, va benissimo. Rodotà, Rodotà, Rodotà, fate risico, vabbè. Ma nessuno, io gioco sempre a risico a Natale, la sera di Natale. Tu mi dici metto non conta i miei niente, amici, vabbè. Ragazzi, vi devo salutare, ciao professore, ciao, presto. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao. Comunque lasciami dire l'ultima cosa. Ma il preservativo l'hai usato o no? Lasciami dire soltanto un'ultima cosa. La rielezione di Napolitano fu una tragedia nazionale, quella del suo successore una farsa. Scusami un attimo, scusa professore, ma tu quante volte hai usato il preservativo in vita tua? E beh, dopo che ho fatto tre figli, sai, non volevo fare i conigli, come ha detto il Papa Francesco. No, appunto dico, appunto dico. Mi sono limitato a tre, come ha detto lui, e poi chiaramente, insomma, poi dovrebbe dirlo anche lui. Cioè, il Papa dovrebbe andare avanti, dovrebbe dire usate il preservativo. Ma per forza, dopo tre, e come se, non è che puoi pensare che lo Spirito Santo non ti faccia bene. Beh, diciamo che ci sono altri contraccettivi, però, non è che c'è solo il preservativo. La pillola. Va bene, dovrebbe dire la pillola, dovrebbe dire. Va bene. Ma va benissimo qualsiasi, parliamo, ma sai, per il Papa, in realtà, come dice la dottrina, bisogna scopare solamente quando per procreare. Ti abbraccio, ciao, vabbè, presto. Però ha parlato di conigli, ha detto paternità responsabile, insomma delle aperture c'erano secondo ciao, me ciao, insomma. Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo a Verona da uno che si chiama o ha detto di chiamarsi Jeff o Geff, vai. Buonasera, buonasera. Chi sei tu? Come ti chiami? Io mi chiamo Federico. Federico, benissimo. Federico da Verona, vai. Allora, signor Cruciani, le volevo informare di una cosa. Lei prima diceva, gli omosessuali sono persone felici qua e là. A parte, io conosco un omosessuale che no, possono essere anche infelici come gli eterosessuali, non come è che devono essere per forza felici. Anche no, no, no, no, anche lei gli diceva che sono felici. Allora, no, della loro condizione, della loro condizione, ci possono essere anche eterosessuali infelici per la loro vita sessuale, come ci possono essere degli ma omosessuali. Sono infelici, ma lei... chi è infelice? Allora, guarda, lei conosce omosessuali? Beh, ha voglia, come no, sì. Lei ci parla tranquillamente, cioè sono suoi amici. Beh, certo. Ma che roba è? Ma certo, guardi, guardi, è sicuro che sono persone profondamente, diciamo, insoddisfatte sia dal punto di vista sessuale e malate dal punto di vista sessuale. E le dicevo che io conosco una persona Cruciani, che è aspetta, guarita. Sì, sì. Non volevo chiedere che è una guarita. Cosa. Sì, sì. E si chiama Luca Di Tolbe e va in giro a raccontare sì, la sua esperienza. Conosco, sì, lo conosco, signor Luca Di Tolbe. Scusami, ci sono libri e ci sono libri che parlano della malattia dell'omosessualità. Sì. Posso chiederti una cosa, Cruciani? Dimmi, scusa. Dimmi, Davide. Volevo, dimmi. No, con l'ascoltatore in linea. Posso chiederti una cosa, Cruciani? Sì, dimmi, dimmi. È la nuova rubrica che si chiama Il Raglio dell'Asino, questa che stai facendo ora? No, è una nuova rubrica. No, però, il raglio... Ma il motivo, scusami. Si chiama Il Raglio dell'Asino, questa nuova rubrica che è stata inaugurata così. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma non ho capito una magari cosa. È una nuova rubrica, sa, allora, Federico, io non ho capito una volevo cosa. Volevo solo informarti di andare a leggerti questi libri, magari, adesso io non mi ricordo lo scrittore, dovrebbe essere con la S, Simon, insomma, è americano, ma allora... ci sono anche tanti altri che parlano appunto della malattia dell'omosessualità. Ma c'è un sacco di gente che dice cazzate, nuova rubrica. Tutto qua. E c'è un sacco di gente che dice cazzate, però, non è che tutti i libri vanno bene, capito? Eh? Scusa? Non ho capito, puoi ripetere? Io non ho capito. C'è un sacco di gente che scrive cazzate. Cioè, non è che necessariamente le cose che vengono scritte sono tutte vere, le capito? Le leggi. Io non ho capito una cosa, Federico. Secondo te i gay sono malati? Questo è il punto. Beh, certo, lo dici. Ma guardi, non ci metterei la mano sul fuoco né sul sì né sul no. Nessun io credo no. Che ma lei, si potrebbe approfondire. Lei ha appena detto che sono malati. Sono un po' malati, sì, io credo. In fondo lo credo, però non vorrei. Io è la mia opinione, ecco, non vorrei dire. Certo che è la sua così. Opinione, non è l'opinione. È l'opinione di chi deve essere, scusa. No, aspetta, uno quando dice la sua opinione, ma l'opinione di chi deve essere? Che sei il portavoce di qualcuno? Che ci sia uno studio, che ci sia una cultura dietro, perché se uno dice la sua opinione e non se ne intende un cazzo, allora è meglio che stia zitto. Io dico la mia opinione, punto. Però, noi pensiamo che dietro ci fosse un pensiero profondo di millenni di studi, di cose, eccetera. Vabbè, Paola da Milano, vai, ciao, ciao Paola. Paola! Pronto? Dai, dimmi. Pronto? Dimmi, Paola. Senti, io come la famiglia Raggi sono furibonda con Parenzo. Perché? No, me ne farò una ragione. Perché continua sempre a offendere i leghisti. Anche stasera, quando Salvini, avete fatto la per Salvini, ha detto, d'altra parte è un gergo così. Beh, certo. E anche cioè, è quello dei suoi elettori. Certo. Ma come si permette? Ma in che senso? Scusi, non ho capito. Ma come si permette Parenzo di offendere sempre i leghisti? Ma Parenzo, scusi, rispondi. Anche stasera ha offeso gentile, i leghisti. Gentile nonnina della Lega. Ma che gentile nonnina della Lega? Scusi, gentile signora. Nonnina un cazzo poi. Sempre, sì. Minacci sempre di... Non minaccio niente, gentile nonnina. Di denunciare, denunciare ma, tutti appena dicono una cosa. Mi baso, io sono cara, felice, ma voglio le scuse. Ma di che scuse, di che le cosa? Scuse del fatto che pensi che se i leghisti siano gentile, dei trogloditi. Se lei non gentile, è normale. Nonnina, si cosa riconosce, non è no, non è normale. Che una persona offenda chi non la pensa come lui. Ma io non offendo nessuno, dico semplicemente che come se lei si riconosce. Ha detto che gentile nonnina, se lei si riconosce in quelle bestialità che ma vengono bestialità? Ogni giorno dette a Radio Padania. Ha parlato Salvini, giusto, più rispetto ci vuole anche sì. Per Bonardo, Salvini e tutti quelli della Lega. Scusi, sono cara. Sono persone rispettabilissime. Lei ha che ci difendono. Ci difendono da chi? Dov'è ci la guerra? Che ci difendono da chi? La pensione è un diritto acquisito. E chi la tocca la pensione? Legge, la legge per lei non lo permette. Vabbè, la consulta, la Corte Costituzionale ha bocciato vabbè, il referendum. Perché qui so, è lei, la democrazia, lei, cara, la mia nonnina della Lega. Tutti anche non offendo nessuno. Ha detto un epiteto a proposito dei grillini che votano. Ma non si deve permettere di offendere sempre chi ma... non la pensa come lei. Perché lei parla sempre... Io non so, ma come mai non io non ho i soldi per denunciarlo, se no l'avrei denunciato. Ma non servono i soldi, signora, per denunciarmi. Per che cosa? Scusa, per quale reato? Per lo quale... che ha detto che quelli della Lega, insomma, ogni trasmissione, quelli della Lega sono dei cretini. Ma lei ha mai ascoltato, beh, sì, signora mia, molto gentile Radio Padania Libera? L'ha mai ascoltata lei? Ma non è lei? La penso come Padania Libera. Allora, gentile nonnina, cara, ma lei non deve la mia ognuno amica può esprimere il suo della parere. Lega, se lei la pensa come Radio Padania, beh, che è un bel ambiente. Ma beh, che è un c'entra? Bel ambiente, meglio del suo. No, beh, signora, ma lei la come sente Radio Padania? Lei minaccia sempre. Ma di... non minaccia, ma lei la persona... sente Radio Padania Libera, quello come che dicono ogni giorno? Una persona le dice una cosa contro la sua, lei minaccia subito la denuncia. Ma non minaccio niente, ma che me ne frega? Come denuncia, non ho mai come purtroppo non denunciato nessuno alla fine. Denunciato lei. Sì, tante volte ha vinte tutte però le cause, cara. Vinte tutte. Sì, come cara. Lotta, come continui, lotta. Continui ad informarsi con Radio Padania. Ma si vergogni lei che ascolta Radio Padania. Ma si vergogni lei che ascolta Radio Padania. Ma perché, scusa? Di lasciare le scarpe a Bonanni. A chi? A chi? A Bonanno. A Bonanni non è neanche degno di lasciargli le scarpe. Ma chi è Bonanni? Bonanno. Bonanni è il sindacalista della CISLEX. Rispettabilissima, onesta. Ma onesta, magari d'accordo. Magari ce ne fossero tutti come dice lui. Secondo me delle bestialità il suo amico Bonanno. Ma no, no, no, è una bravissima persona. La nonnina rivoluzionaria della Lega. È una bravissima nonnina lo dice a sua mamma. La nonnina come lotta non c'è il mio perché dire nonnina mi mica offendo scusa. Nessuno chiede, la nonnina la nonnina scusa. Che combatte vada a combattere contro ISIS nonnina mia anziché stare cretino. Lì a casa ad ascoltare la Radio Padania si armi sì. Combatta contro il califfo nonnina ma mia vergogna. Ma dai ma che c'entra il califfo vada lì a monitorare si Lampedusa nonnina ma dai ma ti rendi conto che roba che è dai signora gentile signora trovano lavoro. Ma cosa c'entra lei ragazzi che non trovano lavoro? Che offendere persone, no, il telefono no, purtroppo soldi. Oggi sono sul posto di lavoro e non al telefono. Cara, ah, la sì, mia nonnina combattente versus migranti clandestini. E dappertutto. La nonnina della Lega, ma perché gli dici nonnina? Non nonnina, ho capito. La signora ma nonnina. Vada via, guarda. La signora nonnina gentile della Lega. Nonnina, lei dica va nonnina va, sua va, mamma. Sì, vabbè, ma anche c'è, ma non è un'offesa. Non è un'offesa. Lei si sente offesa, invece quella si sente offesa. Va bene, allora no, mi rompa le scatole, vado a cucinare la polenta taragna. Su, vada, torni su a cucinare la polenta taragna. Mamma mia. Ma dai, col telefono. Radio Padania, la gente col telefono. Io offendo, ma lei ascolta mai radio mentre cucina la polenta taragna? Ascolta mai? Ma cucina la polenta taragna. Ma cucina la polenta taragna lì. Mentre la cucina la polenta taragna. La sua mamma. La polenta taragna. La polenta taragna. No, io non la mangio. Glielo dica, gli eleganti guardi, eleganti. Quando vado in Veneto. Gli eleganti bene, gli eleganti bene. Io mangio polenta taragna anche couscous, cara. Sai, anche il couscous mangio io. Vado in Israele. Ma cosa c'entra? Anche qui in Italia si mangia il couscous, cara. Torni là. Lei non lo cucina mai, cara, il couscous? Lei non lo cucina mai, il couscous, il hummus? No, non lo cucino mai. Perché io sono italiana. E allora avanti con la polenta taragna, benissimo. E giapponese non lo mangia mai, lei? Se lei cinese non lo mangia mai, lei? No, il kebab. Ma se vuole mangiare italiano sarà mangia buono kebab. Mangia kebab con cipolla. Lo mangia mai kebab con cipolla? No. Allora, va bene, mangi la sua polenta taragna e non mi rompa le scatole, lei però mangila. Guarda, signora nonnina mia, nonnina mia, ascolta, ma che costosi, mangio il kebab, sì, io mangio ragione, di tutto il couscous con troppa facilità. Ha ragione la signorina, ha ragione la signorina, la signorina Paola. Allora Milano, cara, le dico questo, ti abbraccio fortissimo, lei fermi è convinta tutti di questo, continui ogni giorno ad ascoltare Radio Padania Libera, ecco, e a mangiare la polenta taragna tutte le sere, la zanzara e anche di notte. Sento la zanzara. Beh, si incazza come una bestia. Ecco, beh, e mi incazzo perché... No, non dica così, signora. Ogni volta che Parenzo offende tutte le persone. Ma offende tutti. Beh, anch'io non è che ci vado leggero. Tutti. Anch'io non ci vado leggero, signora. Date il cretino, lei... Lei è bravo. Insomma, sì, non è che sia sempre d'accordo che però con lei, è bravo Cruciani, perché te la ritengo una persona così intelligente. M'ha ammazzato, vabbè. Però lei ha... La ritengo Cruciani una persona molto intelligente. Ah, sì, però? Ma insomma. Che c'è? Però certe volte. Sono un maiale, sono un maiale. No, non è un maiale, non è una bravissima persona. Beh, che però quando racconta dei piedi, di quando. Non so, lei signora cosa pensa. Quando di parla quando, di sesso. Quando il signor Cruciani parla di sesso, delle cose. Non lo so, lei come. Ah, lui è. Lui può. Fa così per tenere sulla trasmissione, ma non lo pensa veramente. Beh, insomma, lui guardi, è una brava persona. Qui cara sbaglia. Davvero. No, lui tiene sulla trasmissione, è una brava persona. E tiene su, è un maiale. Vuole, non vabbè, ti abbraccio. Ha preso quel taglio lì e ciao, va Paola, così. Ciao Paola. Però ciao. Non offende mai nessuno. Beh, mai. Cruciani, mai. Che la regina d'Inghilterra, Cruciani. Non ma per carità. Mai King Cruciani. Ma scherzi, principe Carlo Cruciani. Ciao, non ciao, ci scherziamo. Paola, ciao. Ciao, cara, ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Lui tiene sulla trasmissione, è una brava persona. Ha preso quel taglio lì e va avanti così. Però non offende mai nessuno. Cruciani non offende mai nessuno. Senza dubbi né ripensamenti. E a proposito di Radio Padania, caro Parenzo, consueta rubrica. Padania, la nonnina. Cucina la taragna. Prendi il kebab, non permettere e lancialo contro un campo rom. Ma adesso che c'è? Distruggi tutto il kebab e rovescia il couscous. Cruciani non offende mai nessuno. Prendi il bottino primavera e scaglialo contro un negro che corre. Mentre usa la polenta taragna per cibarti tutta la vita. Esatto, signor Parenzo. Libertà. Basta con il couscous. Basta con il couscous. Senza dubbi. Basta con il kebab. Non più sushi al bar. Solo polenta. Allora, dopo che la Corte Costituzionale ha cancellato il referendum sulla legge Fornero, ascoltatori di Radio Padania incazzati per rimanere al tema, diciamo. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua per voce. Per me è inammissibile una cosa del genere. Noi siamo governati da delinquenti, perché chi ha veramente bisogno di soldi, di lavorare, siamo noi popolo, non quei delinquenti che sono lì a fare niente e decidono queste cose. Io sono pienamente concorde con Matteo, perché questa è una legge di merda del cazzo di governo, no, che non fa nulla per il popolo. Libertà. Altro commento moderato? Servi di Roma fuori. A questi della Consulta bisogna dire che si devono vergognare, mette con la testa, sai, dentro il cesso, perché da 3 anni quella che è la Costituzione è stata violata per lungo, per largo e per traverso, e loro non hanno mosso un dito. O si fa lo sciopero fiscale oppure si passa al Kalashnikov. Senti questo. Cerchiamo in tutti i modi di mandare a piedi all'aria questo governo, che ci sta mandando dentro i futuri dominatori dell'Italia, e ci hanno venduto all'ISIS. Cioè, peggio di così, cos'è che dobbiamo ancora vedere? Sciopero fiscale e class action, non vedo altre strade, se no un bel Kalashnikov noi contro di loro, non ci resta altra strada. Servi di Roma fuori. Amici miei, siamo veramente a top. Ma il collegamento da Genova, Orlando Portento, buonasera, buonasera. Pronto? Buonasera. Come andiamo? Pronto? Come andiamo? Pronto? Come andiamo? Pronto? Sì. Il Portento. No, che faccio finta che non sento un cazzo, invece sentono sempre, no? Che si mettono tutte le cuffie, fanno delle finte, quelli, esatto, che sono in collegamento. Stavo ascoltando per la prima volta in Europa, nella mia vita, e ci ho messo 24 ore a scoprire la vostra, come si chiamano, sintonizzamenti. Ah, la nostra la frequenza, la frequenza. Sentivo tutti questi appaldanati, no? Sì. Incazzati della Madonna. Sì, sì. Sentivo perché Calage. Io faccio una battuta tremenda. Dimmi, dimmi, Orlando. Che mi è venuta, che mi dica se mi dai dell'esimo rovinato. No, dimmi, dimmi, dimmi. Ma dimmi, cosa Orlando fai? Come la D'Urso che mi dava dell'esimo? No, ma stai scherzando, del tuo ti do. Ti do del tuo, assolutamente. Lì, certo. Sentivo adesso, perché mi sono sintonizzato, tra virgolette, perché io la radio che cazzo ce l'ho mai più, però mi hanno detto radio, e sentivo tutti gli appadanati. Gli appadanati, sì. Gli appadanati, uno è incazzati, calage, triche, ballacche. Io faccio una battuta tremenda e faccio una liaison e vado dietro. Vai. Così vi do gli input e tutta la tremenda, ma sottilmente, sì, nobile. So che non ci capite un cazzo. Non ci noi non, un cazzo. Di solito non ci capiamo nulla, però va. Ah, lo so, no, ma nessuno ci capirà. Dai, che quindi copio Fabrizio De André. Sì. Dai diamanti non nasce niente, dalla Lega nascono i fiori. Beh, dai diamanti. Beh, dai diamanti, dai non, diamanti nasce... non nasce niente, dalle dame non nascono i fiori. Questo sarebbe stata troppo violenta nel senso nobile. Comunque io ve l'ho giocato così. Di che cazzo vogliamo parlare? Oh, caro Orlando, parliamo di Cruciani? Io sono Cruciani, d'altre parenze. Ma sì, non sì. Dante Cruciani del celeberrimo film Dante Cruciani controllo. Dante, no, bravo, Dante bravo, Cruciani controllo, controllo. Bravo, senti, bravo, poi parliamo pure. Cagato. Che cazzo devo dire? Io no. Che vi dica tutto quello che scrivo? No, perché io vado a getto, Vai a getto, no, aspetta un attimo, poi parliamo anche di calcio, poi parliamo della tua Sampdoria, di Ferrero. Ma lascia stare queste cazzo di cose, qui ci sono frammenti che io scrivo ogni tanto. No, però scusami Orlando, scusami una cosa. Allora, che ne pensi? Chiamalo Portento, che è meglio. No. Che ne pensi di queste due ragazze? Chi è l'altro? Peppino De Filippo, dopo Totò, che cazzo c'era? No, è Parenzo. Si chiama David Parenzo. Parenzo, ti abbraccio, un bacio, tanto grande, siamo tutti ricchioni, posso dire così. Ma tutti proprio no, però non ti caga più nessuno, capisci? Tutti è un po' no, vero, però entri il mio Portento, non ti caga più nessuno, caro se il mio Portento. Domiciliari non ti caga nessuno. Se non sei ladro non ti caga nessuno, se non sei cinese non ti caga, non puoi più votare. Cioè devi far parte, devi far parte di una minoranza o comunque sì, di qualcosa. No, sono nella maggioranza, perdonatemi, sono ricchione. Sì? Da 4 anni, da quando mi sono separato con la con Angela Cavagna, che ho scoperto che ero un trans. Ma veramente? Dopo non è vero. Dai, a cosa volete parlare? Che io vado di getto. No, Orlando, volete, scusami un attimo. Greta, prego. Ah, Greta, sì, la Greta e Vanessa, dai. Come... Dice... Ma tanto voi leggete quello. Greta e Vanessa sono le due monelle, sì, che sono andate in, nei famosissimi ristoranti, sì, della Siria. Sì, beh, i ristoranti erano le più grandi boutique stiliste della Siria. Perché come? Nessuno ha mai cagato, però voi che sapete, sì, che sapete. Sì. Io l'ho scritto prima, forse di tutti gli altri. È mai possibile, sì, che queste due monellacce, sì, sono, sì, partite con bandiera tonnellate di ISIS, di Trick, Bollac, una è la biondissima, sì, e ritorna nera. Ma che vuol dire biondissima? Ritornare, aspettate, cazzo, che nessuno, pazzo, ha mai scoperto questo, ma io l'ho scritto. E questa ritorna, questi vengono con delle lenzuole nere. Sì. E sbarcano, sì, sbarcano, e dove cazzo sono sbarcata? Ah, a Ciampino, sì, a Ciampino. A Ciampino, pensavo a Fiumicino, che fossero venuti con tutti gli extracomunitari, migranti, Trichi e Ballacchi. Sono sbarcati in questa era, nessuno, nessuno, nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno quella canzone che ti cantava. Ti giuro, nessuno, ti giuro. Sì, che cantava Shirley Bassey o Barbara Streisand, no? Bocca, sì. Allora, è scesa da questo cazzo di aereo, sono sì, scesi. Sì. Allora, erano ingrassate di 6 kg. Una era diventata nera, quindi un coiffeur eccezionale. Stupende le scarpe da tennis, perché io le ho scritte. Poi quelle gli hanno date, però, le scarpe da tennis. No, magari erano le loro, andate a controllo, pulitissime, le loro borsette e Trichi e Ballacchi. Ora, è mai possibile che chi ha passato 6 mesi nelle prigionie, in mezzo a caverne, fogne, Trichi e Ballacchi, tutti quelli con mitra, Kalashnikov, bazooka, carri armati, perché è pieni di pipistrelli nel culo, nelle ascelle, perché voglio sapere dove cagano questi qui, perché voglio sapere dove andavano a cagare, a lavarsi, e Trichi e Ballacchi. Sì. Allora, ma Trichi e Ballacchi, non... Trichi e Ballacchi, no? Ma Trichi e Ballacchi è un intercalare, sì, eccetera, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Possibile che voi, specialmente a Zanzarati, non avete scoperto questi? Poi in quel momento che scendono, sì, dove c'è un Gentiloni, parente, sì, come diceva Dottor Negoglioni, sì, vestito da il monologo, vestito proprio peggio di Vittadello di 800 anni. È un ministro vestito normalmente, comunque. No, vabbè, no, vai, ma avanti, quelli vai, che vai prendono, no, quelli che vestiti che rubano, mentre tu sai, quelli che metti per aiutare tutti, poi vanno a rubare, fanno anche quelle mafie, vendono anche questi. Era vestito, guarda, che ha tentato di abbracciare queste qui che non lo cagava nessuno. Ma scusa, e io ho pensato, pensato, che qui c'è uno scambio di ostaggi, perché vedendo però scusa, Orlando, anche prego, tu sei, sei caduto, ti prego, anche tu sei caduto, prego, nel tranello di è vero, lo ammetto, e l'ho detto, hai scritto stronze, hai scritto stronze, mentegatte, zoccole dei terroristi criminali, perché per me rimangono zoccole. Come rimangono zoccole? Sono zoccole. Perché? Perché io rispondo, aspetta, perché sennò qui facciamo un casino. Allora, voglio dire, io sapevo già che poi mi dicevate. Io, siccome Gasparri è stato della Madonna, allora ti faccio una battuta. Dimmi. Che mi viene come deviazione professionale, anche se non mi caga nessuno. Dimmi. Perché mi cacciano sempre fuori dalla televisione. La battuta mi viene, attenzione, ma voi avete guardato bene, ecco, giocati questo, guardato bene. Sì. Perché cosa occhio non vede, l'altro bene se ne frega. Occhio non vede, l'altro se ne frega. Gasparri anche lui è cascato. Perché aspetta, me la gioco di nuovo, se non mi... Vabbè, ma che cos'è che dobbiamo guardare? Guardate bene, no, siccome tu mi stai dicendo, anche tu hai scritto che si scopavano quella cammellata bufala che hanno fatto. Allora, io tu ci ho sei... detto, io ho scritto, non solo Gasparri, si è giocata che l'avete attaccato, allora dico anche, beh, occhio, non vede l'altro, se ne frega, anche io ho scritto questo perché dovete sapere che naufragar mi addolce in questa oculistica del vedere, cioè no, però scusa, io aspetta, quando ho scoperto che era una bufala, esatto, ma io la chiamo cambiata, allora ho detto, ho scritto bene, ma ero felice se l'avessero scopata in 500, perché perché? Poi ho detto, spero, tanto è tutto scritto, sì, spero che sia vero che se ne sono trombate tutte, perché? Perché capiscono che cosa significa veramente essere delle persone, delle ragazze che invece di andare a lavare i piatti, imparare a cucinare, a stirare, rompono i coglioni. Però allora, scusami, Orlando. Allora, no, ma stai dicendo una cosa anticipo, gravissima. Pazzo, ma stai dicendo no, una cosa gravissima. Dai, su, no, Orlando. Ti anticipo quello che dicono, come si chiamano oggi? Sì. Noi destrosi, ma io sono un indipendente. Ma hai detto una cosa tremenda, hai detto che è meglio. Io vedo, ma io voto Le Pen, che cazzo me ne frega. Quindi, ma non c'è Le Pen, ma cosa no, dice? Allora, voglio dire, vi anticipo. Ma dai, ma non c'è la Le Pen, basta! Ma cosa dice? Anticipo! Perché tutti, camminando per le strade, nel ma mezzo del cammino, sentiamo anche di nostra vita, che ora Benigni ce l'ha del culo, perché anche tanta Alighieri, l'Islam non vuole, lui è rovinato. Ma chi ce l'ha nel culo? Chi ce l'ha nel culo? Benigni, perché chi? Anche tanto Benigni, Roberto Benigni ce l'ha nel culo. Perché? Perché adesso, nelle sue tasche, perché adesso verrà vietata, verrà vietato Dante Alighieri, lui ce l'ha nel culo, guadagnerà meno, le sue tasche sono rovinate. Ma tu hai detto una cosa tremenda su queste due ragazze. Aspetta, che non c'è da aspettare niente, deliri. Dai. Divagando, sto divagando, ma non perdo la liaison. Ma no, ma stai delirando. Che dicevo prima. No, però è importante, Orlando. Fermo tutto, fermo un attimo, Orlando. Allora, tu sei arrivato a un punto in questo tuo monologo pazzesco. Sei arrivato a un punto fermo. Hai detto seriamente, era meglio se se le scopavano, così, certo, così, certo, così imparavano cosa vuol dire andare allo sbaraglio come cooperanti, giusto? Ma sono più spietato allo sbaraglio, no, perché queste erano quattro rubagalline che erano il loro sogno, era, ma non si può dire, ma viva, dai, su, è una cosa gravissima, viva l'Islam e trick e ballate il padre, ma nessun trick e ballate il padre doppiato da Cristiano Malgioglio, Ma cosa dice? Ma è una folle. Il padre di una di queste, se vuoi mi assomiglia a Malgioglio, che fa? No, la voce è doppiata da Cristiano Malgioglio. Ma come la voce è doppiata? E allora, per cortesia, sentitevi bene quando veste che dice la cosa che ha detto che non si deve, che non si, ma hai detto che sono ingrassate, hai detto che sono ingrassate, si deve scusare, mia figlia, tanto ho detto cazzo, è Malgioglio che lo sta doppiando, che non si deve scusare sua figlia per quello che ha fatto, e intanto la figlia è scesa con 5 kg di più, ora cazzo, allora il doppiatore di che era, vabbè, il monologo di Orlando Portento su Greta e Vanessa. Benissimo, caro Orlando, io voglio da te un monologo a settimana. Questa volta fammi un bel monologo su Napolitano, una cosa di una ferocia tremenda, deve essere una ferocia incredibile. Ti abbraccio, devo chiudere. Pietro da Milano, vai Pietro, veloce Pietro. Sì, vai, dimmi. Buonasera. Niente, lei all'inizio della trasmissione ha detto che il Papa ha detto massimo tre figli. Ma sì, ha detto che al massimo, ma non massimo, ha detto la cosa ideale è tre figli, non è che ha detto al massimo tre figli e vuole sopprimere chi ne fa quattro, dai Pietro. No, non ha detto questo. Ma come non ha detto questo? È riportato da chiunque, non è stato smentito, dai su. Lei ha letto male. Ho letto male. Il Papa cosa avrebbe detto invece? Ha detto minimo tre figli. Ma che minimo? Stato contrario, quando? Di quello. Ma lei assolutamente non ha detto, non ha detto che la cosa giusta sarebbero tre figli. Questo ha detto. No, ha detto che la giusta per mantenere il livello demografico che abbiamo è tre figli. E quello è ma quello per un fatto demografico. Vabbè, ma comunque quello ha detto. Quello ha detto. Dai, su, non Pietro. Ha detto questo. No, ma non ha detto questo. Adesso sai, tutti quanti hanno interpretato così. Tu invece dici che ha detto un'altra cosa. Dai, su, ragazzi, ci sentiamo domani. 18:30. Salute, Anna da Roma, Domenico Paresa, Giovanni Gabriella. C'è Domenico che ti vuole massacrare. Domenico, domani ti prepari bene, Domenico. Sì. Domenico. Mangia la polenta, dai, ciao. Domani, ciao.